Sezione 8 de Il Decameron, parte prima, giornata prima. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Pierre. Il Decameron, parte prima, giornata prima di Giovanni Boccaccio. Terza novella. Melchisedec, giudeo con una novella di tre anella, cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiatogli. Poi che commendata da tutti la novella di Neifile, ella si tacque, come la reina piacque, Filomena così cominciò a parlare. La novella da Neifile detta mi ritorna a memoria il dubbioso caso già avvenuto ad un giudeo, e perciò che già e di Dio e della verità della nostra fede è assai bene stato detto, il discendere oggi mai agli avvenimenti ed agli atti degli uomini non si dovrà disdire, ed a narrarvi quella verrò, la quale udita forse più caute diverrete nelle risposte alle questioni che fatte vi fossero. Voi dovete, amorose compagne, sapere che, sì, come la sciocchezza spesse volte trae altrui di felice stato e mette in grandissima miseria, così il senno di grandissimi pericoli trae il savio e ponlo in grande ed insicuro riposo. E che vero sia che la sciocchezza di buono stato in miseria alcun conduca, per molti esempi si vede, li quali non fia al presente nostra cura di raccontare, avendo riguardo che tutto il dì mille ne appaiono manifesti, ma che il senno di consolazione sia cagione, come premisi, per una novelletta mostrerò brievemente. Il Saladino, il valor del quale fu tanto, che non solamente di piccolo uomo il fe di Babilonia soldano, ma ancora molte vittorie sopra li re saracini e cristiani gli fece avere, avendo in diverse guerre ed in grandissime sue magnificenze speso tutto il suo tesoro, e per alcuno accidente sopravvenutogli bisognandogli una buona quantità di denari, né veggendo donde così prestamente come gli bisognavano avergli potesse, gli venne a memoria un ricco giudeo il cui nome era Melchisedec, il quale restava ad usura in Alessandria, e pensossi costui avere da poterlo servire quando volesse, ma sì, era avaro che di sua volontà non avrebbe mai fatto, e forza non gli voleva fare, perché, stringendolo il bisogno, rivoltosi tutto a dover trovare modo come il giudeo il servisse, s'avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata, e fattosi chiamare e familiarmente ricevuto, secco il fece sedere, e da presso gli disse: «Valente uomo, io ho da più persone inteso che tu sei savissimo e nelle cose di Dio senti molto avanti, e perciò io saprei volentieri da te quale delle tre leggi tu reputi la verace, o la giudaica, o la saracina, o la cristiana. Il giudeo, il quale veramente era savio uomo, s'avvisò troppo bene che il Saladino guardava di pigliarlo nelle parole per dovergli muovere alcuna questione, e pensò non potere alcuna di queste tre più l'una che l'altra lodare, che il Saladino non avesse la sua intenzione. Perché, come colui al quale pareva d'aver bisogno di risposta, per la quale preso non potesse essere, aguzzato l'ingegno, gli venne prestamente avanti quello che dir dovesse, e disse: «Signor mio, la questione la qual voi mi fate è bella, e da volervi dire ciò che io ne sento, mi vi convien dire una novelletta qual voi udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale, intra l'altre gioie più care che nel suo tesoro avesse, era un anello bellissimo e prezioso, al quale, per lo suo valore e per la sua bellezza volendo fare onore ed in perpetuo lasciarlo nei suoi discendenti, ordinò che colui dei suoi figliuoli, appo il quale sì come lasciato di da lui fosse quest'anello trovato, che colui si intendesse essere il suo erede e dovesse da tutti gli altri esser come maggiore onorato e reverito. E colui al quale da costui fu lasciato tenne similiante ordine nei suoi discendenti e così fece come fatto aveva il suo predecessore. Ed in breve andò questo anello di mano in mano a molti successori ed ultimamente pervenne alle mani ad uno il quale avea tre figliuoli belli e virtuosi e molto al padre loro obbedienti, per la qual cosa tutti e tre parimenti li amava. Ed i giovani, li quali la consuetudine dell'anello sapevano, sì come vaghi ciascuno d'essere il più onorato tra suoi, ciascun per sé, come meglio sapeva, pregava al padre, il quale era già vecchio, che quando a morte venisse, a lui quell'anello lasciasse. Il valente uomo, che parimente tutti gli amava, ne sapeva esso medesimo reggere a quale piuttosto lasciarlo volesse, pensò, avendolo ciascun promesso, di volerli tutti e tre soddisfare. E segretamente ad un buon maestro ne fece fare due altri, di quali sì furono similianti al primiero, che esso medesimo che fatti gli aveva fare appena conosceva qual si fosse il vero. E venendo a morte, segretamente diede il suo a ciascun dei figliuoli, di quali, dopo la morte del padre, volendo ciascuno l'eredità e l'onore occupare, e l'uno negandolo all'altro, in testimonianza di dover ciò ragionevolmente fare, ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi gli anelli sì simili l'un all'altro, che qual fosse il vero non si sapeva conoscere, si rimase la questione, qual fosse il vero eredo del padre, impendente, ed ancor pende. E così vi dico, signor mio, delle tre leggi agli tre popoli date da Dio Padre, delle quali la questione proponeste, ciascun la sua eredità, la sua vera legge, e i suoi comandamenti dirittamente si crede avere e fare, ma chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende la questione. Il Saladino conobbe costui ottimamente esser saputo uscire del laccio il quale davanti a piedi teso gli aveva, e perciò dispose ad aprirgli il suo bisogno e vedere se servire il volesse. E così fece, aprendo di ciò che in animo avesse avuto di fare, se così discretamente, come fatto avea, non gli avesse risposto. Il giudeo, liberamente, d'ogni quantità che il Saladino richiese, il servì, ed il Saladino poi interamente soddisfece, ed oltre a ciò gli donò grandissimi doni, e sempre per suo amico l'ebbe, ed in grande ed onorevole stato, appresso di sé il mantenne. Fine della sezione 8.